avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Io, nei miei limiti di essere umano, cerco sempre di mantenere le promesse che faccio agli ascoltatori. Ricordate, un mese fa vi promisi che saremmo tornati sul tema della propria felicità. Ne parlammo con Silvana De Mari e Silvana De Mari questa mattina è con noi. Silvana, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti quanti. Lo dico perché c'è stata grande richiesta, visto che il taumaturgico verbo di una scrittrice di fantasy sembra la maniera migliore per scardinare il proprio quotidiano. Qual era la domanda che ci facevamo allora? La domanda è: cosa ci rende felici? Sembra che la missione fondamentale della nostra vita sia il raggiungimento della nostra felicità terrena, perlomeno nella nostra umana definizione. Poi naturalmente ognuno di noi ha parte delle proprie aspettative anche su una vita che va oltre questa condizionata di essere umani, ma fermiamoci innanzitutto a quello che sembra più semplice, dimentichiamo per un attimo la metafisica, fermiamoci al nostro quotidiano. Noi ci domandavamo cos'è che ci farebbe veramente felici e abbiamo visto che rispondere è la cosa più difficile del mondo. Apparentemente tutti ci lamentiamo dell'infelicità, dello stress, della noia, della vita che non vorremmo, della vita che ci sopraffà, ma in realtà alla domanda secca e precisa cos'è che ti renderebbe felice non sappiamo rispondere. Io stavo provando durante la sigla a pensare cosa farebbe me felice in questo momento, ma ho provato a rispondere. Mi piacerebbe che mi evaporassero tutti i pensieri, come una nuvola, tutti i pensieri evaporano improvvisamente, come fossero qualcosa che si può disciogliere, vedere una nuvoletta sopra la testa, non ci sono più pensieri. E poi dopo, senza pensieri, che vorrei? Vorrei la felicità per la mia famiglia innanzitutto, chiaramente avendoci figli uno pensa subito, quando i figli stanno bene si aprono delle fessure meravigliose nel proprio quotidiano, uno può fare quel che vuole, sono lì tranquilli, contenti, protetti, felici, quindi te puoi ancora pensare alla tua vita, quindi quella è una condizione impossibile da eliminare, la felicità delle persone a cui tieni, al nucleo familiare. E fatto questo, a posto la famiglia, i pensieri evaporati, che vorrei? Beh, non so, improvvisamente mi immagino tutto un mondo come fosse una grande distesa lattiginosa, bianca, che non c'è niente. Vorrei starmene lì appoggiato, tranquillo e finalmente, non so, avere un pezzo di carta per poterci scrivere e poter fissare quello che mi viene in mente. Forse è questo, ma già non è un pensiero completo. Forse non vorrei essere solo, forse vorrei avere una fantasia smisurata e accedere alla possibilità di vedere, conoscere, percepire, toccare, amare, quello che vuoi, alcune persone che magari non ho mai visto, non ho mai conosciuto, forse vorrei volare, non lo so. Questo è un banalissimo desiderio di felicità individuale. Provate anche voi a fare il vostro. 800 24 0024. Bisogna dare senso al nostro tempo, non solo perché è poco, ma per un'etica della vita che abbiamo perduto. Che il mondo finisca oppure no, oggi noi siamo qui e la cosa grave non sarà scomparire, ma non essere mai stati. Noi non siamo mai stati ogni giorno nel traffico. Non siamo mai stati quando viviamo con quel peso sul cuore. Non siamo mai stati ogni volta che il sistema ci costringe a gesti non nostri e noi non reagiamo. Non siamo mai stati negli acquisti inutili, nel riscatto del tempo speso a compiere azioni che non servono. Non siamo mai stati quando viviamo 9 ore al giorno con persone che non abbiamo scelto. Non siamo mai stati quando abitiamo in posti brutti, mentre l'Italia e il mondo sono pieni di luoghi meravigliosi, dove le case costano poco. Ecco, è triste e drammatico rendersi conto che il 99,9% dei nostri affanni quotidiani ci portano a pensare che in realtà stiamo costruendo uno spazio e un tempo in cui noi non siamo mai stati. Questa riflessione è presa da un libro, Avanti tutta, non siamo mai stati, appunto, edizioni Chiare Lettere, che è un libro di Simone Perotti. Simone Perotti, buongiorno. Buongiorno a voi. Simone Perotti, abbiamo sentito già in precedenti trasmissioni, è quel signore, vi ricordate, che aveva scritto "Adesso basta lasciare il lavoro e cambiare vita", che dopo aver lavorato per 20 anni nel settore della comunicazione, un giorno si è lessato le gonadi, ha detto basta, ha lasciato soldi, carriera e si è trasferito nell'entroterra Spezzino, in Liguria, e si è dedicato esclusivamente a scrivere e navigare. Oggi passa 4 mesi all'anno in mare, per vivere porta, trasporta, trasferisce imbarcazioni, fa lo skipper, l'istruttore di vela, fa lavori di tutti i generi, fa l'artista, vende le sue sculture, fa varie cose, tutto lo potete vedere nel libro, nel sito www.simoneperotti.com. Simone Perotti, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, in cui ci ha illustrato una concreta e reale, coraggiosa realizzazione del downshifting, del abbassare il proprio livello di aspettative, perlomeno secondo il metro comune, e fare quello che veramente uno piace fare. Cosa è accaduto? Da cosa nasce questo secondo libro? Ma sono andato avanti nel tentativo di fare quello che lei diceva poc'anzi. Lei ha parlato di due cose molto importanti un attimo fa. Ha detto cosa ci renderebbe felice e la difficoltà di avere dei pensieri definiti in proposito. E noi millimetro per millimetro, istante dopo istante, nel corso del tempo ci siamo infilati in questa realtà quotidiana in cui il vero dramma non è tanto non fare o non essere in una direzione ben precisa, ma è non saper fare quella semplice e naturale operazione che lei descriveva poc'anzi, di sapere, pensandoci, che cosa ci renda felici, che cosa ci possa far passare questo periodo breve di permanenza terrena. Diciamo Perotti, quando uno è solo è più facile, quando esistono, ahimè fortunatamente se Dio vuole, delle appendici concrete, frutto del nostro desiderio o dell'azzardo o del caso di voler mettere su famiglia, è un pochino più difficile fare scelte, c'è una morsa quotidiana che ormai stiamo in un ingranaggio da cui come si fa a uscire? Ma no, non del tutto, sa, perché le tre configurazioni sociali, cioè il single, la coppia e la coppia con figli, hanno determinate caratteristiche, diciamo così. Quindi la coppia senza figli è la più facilitata, sia perché fa economia di scala, sia perché non ha eccessive responsabilità. Diciamo che chi sta solo è re delle proprie scelte, in realtà. Sì, però diciamo si hanno più costi, per esempio, e quindi questo è un problema. Il single sta in mezzo perché ha più costi della coppia senza figli, ma non ha il conforto di una compagnia e in qualche modo non ha, però anche ha più libertà perché non ha i figli, e poi ci sono le famiglie con figli. Ma il problema non è questo, il problema non è il grado di difficoltà o i problemi da risolvere, il problema è come lei diceva poc'anzi, appunto, avere una chiara visione delle cose, pensare a dove si vuole andare. Nel corso di questo tempo, tra il primo e il secondo libro che lei ha citato, io sono andato avanti in questo pensiero e ho avuto buon gioco nel farlo, perché la mancanza del peso sul cuore quotidiano, dell'ansia del lavoro, questo respiro corto del dover correre, la mancanza di rumore intorno a me, la disponibilità del tempo hanno facilitato la semplice attività della meditazione sulle proprie cose. Le hanno scritto decine di migliaia di persone attraverso la posta elettronica, ponendo naturalmente le stesse eccezioni che ci sentiremo questa mattina di porre noi. Come si fa a vivere con meno soldi? Non pensi alla pensione? E se ti ammali che succede? Guarda che una volta uscito dal mondo del lavoro non rientri più. Ecco, a tutte queste domande lei ha gradualmente risposto nel secondo libro. Sì, e soprattutto scoprendo che si vive con molto meno di quello che avevo preventivato, che le difficoltà a cui si pensa prima di partire sono enormi quando ci pensi, ma non lo sono quando le vivi. Ma vede, queste risposte sono già state date su tanti media, anche qui sulla radio con voi, eccetera. Quello che conta però è che pochissimi, e questo è il dato inquietante, non parlano di soldi. Il 90% delle persone parla di soldi, mentre il problema dei soldi è un problema, naturalmente nessuno sottovaluta, io ne parlo facendo tabelle, conti, eccetera, quindi meno di me nessuno lo sottovaluta, ma c'è un problema molto più grande, che questo è un paese che ha smesso di sognare, che morirà con una moneta in bocca a furia di parlare di soldi e avrà non vissuto nel frattempo, perché pensare ai soldi è un pensiero giusto e concreto da persone che hanno il senso della realtà, ma se accanto non c'è il tema del quello che lei accennava prima, che cosa mi rende felice, chi sono io, dove sto e dove voglio andare, ma in maniera molto semplice, senza fare i filosofi dei noantri. Sì, ma io guardi, ma colgo la quotidiana del pensiero sulla propria vita, che invece quello non è, quello è imprescindibile, più imprescindibile del pensiero del dicevo denaro, Perotti, e su questo chiamo anche l'attenzione degli ascoltatori all'800240024. Poniamo pure i soldi al primo posto per avere la felicità, perché senza soldi si è subito infelici. Ma il bello dei soldi è avere il tempo e la leggerezza di saperli spendere. Cioè, il bello io la felicità è quando non devo farmi conti in tasca se voglio andare al ristorante con un'amica, con un amico. Non devo farmi conti in tasca quando devo fare un regalino. Non devo farmi conti in tasca quando devo prendere un treno, un aereo per andare a un posto che mi piace. Quello è il fantastico vantaggio di avere i soldi. Per il resto, l'ossessione del soldo risolve poco. Silvana De Mari. Con te volevo affrontare un altro tipo di aspetto, ecco, quello che dice Perotti poi ci spiegherà tecnicamente nello specifico come poi può diventare una realtà concreta, non potrebbe assomigliare tanto a una sorta di sogno di vita non condizionata su cui diciamo, siamo già storicamente passati, i figli dei fiori, coloro che abbandonavano tutto, facevano le comuni, qual è la differenza nel momento storico preciso che stiamo attraversando di fare una scelta coraggiosa di rivedere il proprio punto di vista rispetto alle priorità che ci danno felicità? Allora, ha fatto una scelta assolutamente coraggiosa perché si è chiarito, questo è il punto difficile, che cosa lui vuole, qual è la sua strada alla felicità, perché questa è la parte divertente, ognuno di noi ha una sua strada diversa. Brava, non lui c'è una felicità assoluta, ognuno ha la sua personale felicità. Se qualcuno mi condannasse ad abbandonare le mie responsabilità, io c'ero. Perché? Perché lui non era nella sua strada, mentre io ero nella mia. Io sono nella mia macchina quando sono negli ingorghi, infatti riesco a godermi anche quel tempo lì, riesco a godermi il tempo che ho passato in attesa, perché io sono nel posto giusto, mentre lui era nel posto sbagliato, è tutto qui. Mi date 2 minuti per spiegare la differenza che passa tra stress e eustress e distress? Sì. Perché spesso noi parliamo malissimo dello stress. Io amo lo stress, io non ne parlo mai. Ma che diavolo ci ha messo nella testa una roba che ci fa male? In realtà abbiamo 2 tipi di stress. Eu vuol dire buono, dis vuol dire disastroso. Eustress e distress. La mancanza di stress è un disastro. La mancanza di stress, che è la situazione dell'animale nello zoo, anche del cadavere, diciamo. Sì, anche del cadavere, oppure della persona che non ha pensieri economici, il parente di quello ricco no, deve gestire la ricchezza. Spesso che noi viviamo con la noia è un qualcosa di doloroso, beh certo se ti stanno bruciando i piedi è peggio, ma proprio perché non costruiamo competenze, giriamo a vuoto, il nostro ideale è l'eustress è lo stress che mi piace, ci sto benissimo, scarico adrenalina, sto da Dio, io l'eustress ce l'ho quando tengo le conferenze. A me piace da pazzi, anche perché so sempre che vanno bene, ho visualizzato in precedenza che vanno bene, questo è il punto. Quindi faccio una cosa che mi piace, avendo visualizzato, dando per scontato prima che andrà bene, quindi ho annullato tutte le cose negative. Durante lo stress, io ho l'adrenalina a palla, sono molto più intelligente di quanto sia normalmente, mi si forma un doppio canale tra me e coloro che mi ascoltano, è come il musicista quando suona davanti al pubblico e suona bene, o come l'attore quando è davanti al pubblico, oppure come il chirurgo, quando il chirurgo che ama il suo lavoro vede l'operazione difficile che va bene, l'operazione che ha preparato per mesi, evidentemente, studiando, è tutto eustress, stiamo da Dio, di stress, sono nel posto sbagliato, faccio la cosa sbagliata e la faccio dopo aver visualizzato che mi va male. Facendo un esempio molto banale, noi dove siamo i costruttori della nostra felicità, andiamo sul terra-terra, lo studente che dà l'esame resta paralizzato dall'angoscia, dall'ansia prima dell'esame, per cui non riesce a darlo, evidentemente non ha imparato a far giocare tutte le intelligenze nella sua squadra, noi parliamo di intelligenza, noi abbiamo le intelligenze, sono intelligenze diverse, io posso essere bravissima, faccio le equazioni di terzo grado perché ho un'intelligenza cognitiva potente, poi non ho imparato a programmare l'intelligenza emotiva, non do mai l'esame perché sono talmente spaventato, talmente terrorizzato che permetto alla paura di bloccarmi. Ecco, però, scusi un attimo, mi viene da pensare, lei che nella sua vita ormai è diventato un raccontatore di questa scelta, quindi lei continuamente fa conferenze, incontri, scrive saggi, è d'accordo con quello che dice Silvana De Mari? Io personalmente sì, io senza stress non saprei vivere, lo stress mi dà la felicità della scoperta della fessura in cui fuggire, che però è sempre a tempo determinato, voglio sempre ritornare alla mia situazione di stress. Prova la stessa cosa anche lei, ormai ha abbassato completamente l'attesa nell'incontro con le altre persone? Ma vede, quello che state dicendo è senz'altro vero, poi tra l'altro è detto su basi profonde, articolate. C'è un'altra cosa accanto a questo però, che è la mancanza del sentimento della missione. Viviamo tutti come orientati ad una missione da compiere, indifferibile, che a cui non possiamo disattendere se non fallendo, eccetera. Questo è in gran parte orientato dagli stili di vita e dai valori di riferimento che non sono nostri, che ci vengono imposti dai media e dalle culture dominanti, e che invece non è vero. Nessuno di noi, nessun uomo ha una missione, secondo me. E non avendo una missione si perde anche tutta l'urgenza di doverla compiere. Beh, noi ce la inventiamo, perché sennò ci svegliamo la mattina e troviamo difficile motivare lo scendere dal letto in cui si sta tanto bene al calduccio. C'è un livello che io credo, a cui io personalmente lavoro con impegno e anche con molta soddisfazione. C'è un livello di vita, tanto ai momenti di motivazione, naturalmente orientati al raggiungimento di obiettivi specifici, che però consente di raggiungere, non dico l'atarassia naturalmente, ma quella quiete in cui l'ansia che deriva dal raggiungimento dell'obiettivo, dallo stress della missione, se ne va. E c'è del fantastico tempo da perdere, essendo che nessuno di noi ricorda il nome e cognome della mamma della propria bisnonna, quindi l'operazione della vita non deve essere così tanto significativa, se ci dimentichiamo persino di chi ci ha preceduto, figuriamoci di chi non ci ha preceduto, che non io è io spesso la mamma, dimentico anche il nome bisnonna. Di chi ho davanti. Però questa cosa qui è molto importante, perché in quegli spazi dove non c'è quell'ansia, dove non c'è quella responsabilità, dove non si è collegati a una missione che non si può non realizzare, c'è tanta vita. Ed è una vita che noi abbiamo dimenticato e che in parte è anche all'origine, alla base dei nostri disagi. Sentiamo Giacomo. Giacomo, buongiorno. Ecco, Giacomo era talmente felice che ha pensato di staccare il telefono. Allora andiamo avanti con un'altra parte del libro Avanti Tutta di Simone Perotti, che è Edizioni Chiare Lettere, che ci spiega quale può essere un'alternativa al cambio totale e radicale di vita che sembra così doloroso e così difficile da fare. Non siamo mai stati quando veniamo vinti dalla noia, dall'inerzia, quando non ci comportiamo sobriamente, dunque quando non siamo dignitosi. Non siamo mai stati quando saremmo musicisti, pittori, artigiani, scrittori, sarti, decoratori, falegnami e invece vendiamo fondi di investimento o compiliamo dichiarazioni dei redditi. Non siamo mai stati quando ci pensiamo su troppo, oppure quando decidiamo impulsivamente, mentre il cambiamento è un processo, un percorso da iniziare subito, ora, e a cui lavorare a lungo, dando senso alla nostra vita, prima che cambiare non sia troppo tardi. Simone Perotti, Avanti Tutta. Molte volte la botta del cambiamento ce la dà una circostanza che noi non determiniamo. Il pericolo di una malattia da cui usciamo e scampiamo, una tragedia sul piano familiare, sul piano professionale, improvvisamente ci rendiamo conto che tutto ciò su cui noi contavamo, che consideravamo una sicurezza a vita, improvvisamente finisce. E allora, già che ci siamo, già abbiamo con le mani in mano, è come quando si fa una ristrutturazione di una casa, che poi uno comincia a rompere i muri, poi dice cambiamo gli impianti, poi dice cambiamo un po' anche la disposizione delle pareti, poi apriamo una finestra, poi mettiamo un terrazzino, insomma, si cambia tutto. Andrea, buongiorno. Ah, buongiorno. Eccomi. Allora, non si può pensare che sia un obiettivo, per esempio, la sazietà o il fatto di essere al caldo, in quanto esistono solo come antitesi della fame o del freddo. Altrettanto la felicità esiste in quanto c'è anche l'infelicità. Naturalmente, bravo. Mentre io suppongo che ciò di cui parliamo... No, se nascevamo felici non stavamo qui a parlare, chiaro. Perfetto, anzi sarebbe una tragedia. Tristissimo. Potrebbe potrebbe ciò di cui parliamo essere in viceversa la conseguenza del fatto che siamo diretti verso la realizzazione di noi stessi, che poi può essere articolato in obiettivi o meno. Comunque ciò che appaga intimamente l'uomo, quindi chiamiamolo pure felicità, è il percorso verso la realizzazione di se stessi. Scusi Andrea, sono belle teorie, ma parli di sé, perché io mi sono messo in mutande questa mattina, ho detto cosa a me farebbe felice. Lei non scriva il piccolo manuale del perfetto uomo felice, lei come lo risolve questo problema? Certo, mi permetto di fare una piccola metafora, poi entro nel personale. Parli anche per metafora, ma parli di sé. Allora, un maratoneta soffre durante la sua gara, eppure è felice perché sta realizzando se stesso. Lei è un maratoneta, Andrea? No, lo sono nel senso di... Parli di sé, vediamo se ci riusciamo, certo, a questo diciamo sport. Che io ho esercitato nella mia vita una coerenza estrema di fronte a certi miei punti di vista, idee, interpretazioni della realtà. Che sarebbero? E... me ne dica una. Per esempio non avere la ricchezza come proprio obiettivo, pur sapendo di poter accedere. Quindi lei si è moderato nella corsa verso la ricchezza. Sì. Che mestiere fa, glielo posso chiedere, Andrea? Sì? Che mestiere fa? Sì. L'agente di commercio. È difficile in un agente di commercio dire limito la ricchezza, perché lei dovrebbe essere un dispensatore di ricchezza. Non è difficile in quanto uno dedichi il proprio tempo a, per l'appunto, a realizzare degli obiettivi che ritiene più importanti. Però non lo può scrivere certo sul suo biglietto da visita: io limito la mia voglia di ricchezza, sennò sarebbe un controsenso. Ma più che limito la voglia, come un medico scrivesse: io sono per un parziale beneficio per la vostra salute, non può dirlo lei. Io appago il mio bisogno di essere me stesso, e la conseguenza è che ho meno tempo per seguire la ricchezza. Beh, è felice o no? C'è riuscito qualche volta? Ha degli sprazzi di felicità? Ma certamente sì, direi a sprazzi, perché questo, più di ciò non si può ottenere, però come stato di fondo dell'animo c'è. Guardi, la vera felicità è quella che ci arriva come una frustata, ci lascia il segno e non ce ne rendiamo conto lì per lì, perché non ci se ne accorge. E, diciamo, poi a freddo si rende conto che ha avuto un momento di felicità, e nella nostalgia di raggiungere, di ricercare un momento simile, si articola la nostra vita. 800 24 00 24. A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La paura è dunque l'unica moneta della nostra epoca? Paghiamo in questa valuta quasi ogni scelta della nostra esistenza, soprattutto quando si tratta di cambiare. Il messaggio è: se resti dentro sopravvivi, se esci muori. 800 24 00 24. Andiamo avanti nella seconda parte di questa trasmissione dedicata a cosa possiamo fare per essere felici, alle soluzioni pratiche. Definire la felicità in astratto è molto difficile, è molto difficile che ognuno poi definisca la propria equazione della felicità, perché è una variabile infinita. Per ognuno essere felice è condizionato dal momento, dalla fase della vita, dalle persone che attorno, dalle circostanze atmosferiche, geografiche, professionali, sentimentali, lo stato di salute. Ci sono un'infinità di variabili alla propria felicità. Una cosa è certa: quando si è stati felici lo si ricorda come un momento di vera felicità, e è difficile provare e assaporare la felicità nel momento in cui la si prova. È come un'ubriacatura. Il bello è il momento in cui ci si rende conto di essere stati bene. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Formula della felicità, secondo lei cosa fa di concreto per cercare di essere felice? Allora, faccio una piccolissima premessa. Nel momento in cui ho conosciuto mio marito, venivo fuori da un periodo difficile, e lui mi ha detto: ora che vuoi fare? Io gli ho detto: voglio essere felice. E lui ha detto: va bene, facciamo insieme. Quindi c'era questo desiderio di felicità da parte di entrambi. Vi siete sposati? Sì. E diciamo che noi venivamo tutte e due da momenti di dolori familiari che ci hanno accomunato, però niente, non abbiamo, noi non abbiamo vissuto nel dolore, abbiamo cercato di essere felici tutti i giorni, anche sorridendo delle piccole cose. Vabbè, non è detto che occorra sempre un infermiere e un trauma per essere felice, uno può essere felice anche senza grosse situazioni, sì, dolorose. E io non credo nelle persone che, avendo avuto un dolore, ritengono di non poter essere mai felici, non poter... La felicità è guardare comunque avanti. Sì, allora cosa le fa felice? Cosa la fa felice, Lucia? Cosa faccio per essere felice? Un marito è astratto, sì, fa felice il primo mese di luna di miele, poi inizia la vita, non è che basta un marito per essere felice, una moglie. No, no, non è che lui, che io tramite lui sono diventata felice. Io tutte e due ci ha accomunato questa voglia di essere felici, questa voglia di non rimanere nel nostro dolore. Ma come ve la levate la voglia allora di essere felici? Come, chiedo scusa? Come ve la levate la voglia di essere felici? L'avete tutte e due? State sì. Assieme? Allora, noi siamo due liberi professionisti e quindi il libero professionista ha l'angoscia dei termini, delle date, delle consegne. Noi cerchiamo di uscire da questo, cerchiamo di... io dico ogni tanto, io faccio la giornata dell'angelo, nel senso che quando sono piena di cose da fare, in quel momento mi fermo, mi guardo attorno, un cane, mi fermo a fare qualcosa per questo cane, vedo delle persone che hanno bisogno di qualcosa. Lucia, no, sì. non troviamo la scorciatoia di essere felici facendo del bene agli altri. Scusi, no, è ottima attività, ma assolutamente, è la cosa che meno ci rende felici. Pensiamo alla nostra felicità, scusi, bisogna essere fortemente egoisti in questo, che la felicità è un atto esplosivo. Sì, sì, non lo metto in dubbio. Io sono felice. E lei è felice facendo il bene al posto. Mi fa piacere, Lucia, non è che la voglio censurare in questo suo afflato, però dire sempre mi fa felice fare bene agli altri, bello, gratifica molto, empie il cuore di gioia e soddisfazione, ma la felicità è qualcosa che si sente sulla propria pelle, è qualcosa che fa esplodere noi stessi, non l'atto che facciamo verso un'altra persona. Paolo. Eh sì, buongiorno. Io sto dando pessimi esempi e andrò all'inferno. Andiamo avanti. Paolo. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Beh, io praticamente ho imparato a suonare la chitarra perché mi piace tanto il blues e ho detto, visto che deve essere un compromesso questa felicità con le cose che non posso abbandonare, mi ritaglio uno spazio mio, imparo a suonare la chitarra e quando sono solo canto il blues e mi diverto. E in quel momento provo felicità. Sono felice a realizzare un sogno. Lo realizzo continuamente perché quando suono... E praticamente continua a realizzare questo. La musica le dà felicità? Ah, tanto, tanto. Poi? Beh, poi ci sono tante altre cose, il figlio, la compagna con cui sto, il fatto di aver scritto un libro, cioè mi sono ritagliato dei piccoli spazi all'interno della mia vita in cui curo delle cose che quando faccio mi danno tanto piacere. Leggo sulla sua scheda, ha corteggiato la donna che a lui piaceva. Esattamente. Vabbè, quella grande, cioè lei desiderava una donna e è riuscito ad averla. Stiamo insieme, adesso viviamo insieme, certo. Beh, questo mi sembra un fino alla prossima, il prossimo desiderio di felicità va bene, è un forte appagamento. Antonio. Salve, ma io parto da un presupposto, cioè che la felicità è difficilmente definibile perché probabilmente non è raggiungibile. Ma io su questo non sono d'accordo, onestamente, poi ognuno la pensa come vuole. Io ho dei momenti, se volessi prendere un foglio bianco e scrivere momenti in cui sono stato felice, 7-8 punti ci sarebbero. La felicità di un momento è uno stimolo, cioè la felicità dovrebbe essere permanente. Dal mio punto di vista è un ossimoro la felicità permanente, è esattamente il contrario. Comunque molto spesso confondiamo serenità e momenti di contentezza con quella che potrebbe essere la felicità, cioè io credo che... Beh, parli per lei, lei cosa pensa, cosa l'ha dato, cosa le dà felicità e cosa ha fatto per essere felice? Cosa ho fatto per essere felice? Ho cercato di sconfiggere la mia infelicità dedicandomi a un'attività che si occupa appunto di sofferenza, della psicanalisi, che non è vero affatto che si fa questo tipo di lavoro per aiutare gli altri, ma lo si fa innanzitutto per aiutare se stessi. Oddio, non si faccia sentire dai suoi pazienti. Lo sanno. E continuano a pagarlo. E mi continuano a pagare. Ognuno trova la sua maniera. È una dimostrazione, almeno dal mio punto di vista, di sincerità, no? Bisogna diffidare di quei degli psicoterapeuti che sono degli altruisti, perché in realtà ingannano se stessi e ingannano i pazienti. Beh, oddio. Si parte da una ferita personale. poi quella ferita si presume che si risolva e in parte quella io parlo dell'applicazione di una branca della medicina che si occupa della psiche, dovrebbe essere un lavoro che può dare soddisfazione personale, non è la terapia del terapista, se no il terapista terapia se la fa da un altro terapista. Beh, guardi, lei insomma spesso fa delle citazioni colte, ma insomma Winnicott, che è stato uno dei più grandi psicoterapeuti, ha detto che alla fine della sua carriera si rendeva conto che avrebbe dovuto pagare lui i suoi pazienti per quello che gli hanno dato. Sì, però l'ha detto alla fine, non lo parte come progetto iniziale, è tirare le somme di una carriera. Comunque, ecco, bene, no, Antonio. Comunque, sì. Il concetto che volevo esprimere in 30 secondi è questo. Ma perché sono infelici le persone che vengono da lei? Allora, gliela giro così. Ma le persone che vengono da me sono infelici perché fondamentalmente si sentono sole. Si sentono sole, si sentono non amate. E non è detto che ci sia un trauma, molto spesso fa peggio, fa più male una carezza, un abbraccio che non si è ricevuto nell'infanzia piuttosto di un chi ha dato, chi ha avuto, non è che si può tornare indietro. Allora, fondamentalmente ciò che c'è alla base è che si è soli. Il problema è che la solitudine alla fine costituisce un involucro protettivo, per cui alle volte le persone che potrebbero fare quel salto verso la felicità regrediscono verso la sofferenza, la malinconia, perché è più rassicurante. Vabbè, fermiamoci un attimo. Silvana De Mari, riportami su un piano concreta, reale esperienza di ricerca faticosa della felicità. Ricordo Silvana De Mari, scrittrice fantasy, saggista. L'ultimo romanzo è L'ultima profezia del mondo degli uomini, Fanucci Editore. Silvana. Le tre persone che hanno parlato sono tre geni sulla costruzione della propria felicità. Siccome io vado sul terra-terra, così per questo ti voglio. Felicità vuol dire avere le endorfine, la serotonina a palla e il cortisolo basso. Si poteva dire meglio, ma così funziona. Nel momento in cui io sono l'angelo, nel momento in cui io rendo felice un'altra persona, ricordatevi che la felicità è contagiosa, gli stati mentali sono contagiosi, se vi capita gli otti, il fenomeno interpersonale da coscienza, un libro un po' tecnico ma tanto caruccio. Allora, nel momento in cui io rendo felice un altro, rendo felice anche me stesso in termini biochimici. Nel momento in cui io rendo felice un altro, do l'euro al mendicante o faccio un gesto, un sorriso o dico che begli orecchini signora, ho aumentato la serotonina della persona a cui ho fatto un gesto di cortesia, ho aumentato la mia, ho aumentato anche la serotonina di tutti quelli che hanno assistito. È un trucco velocissimo per renderci felici il più a lungo possibile. Imparare a suonare uno strumento musicale, cioè devo rendere felici gli altri, la felicità è contagiosa, prima devo rendere felice me stesso. Se suonare blues mi rende felice, facciamolo, non solo, ma questo signore, come la signora precedente, si sono resi anche stabilmente felici, perché il nostro cervello è plastico tutta la vita. Se noi ci abituiamo a essere felici un istante oggi, un istante domani, prima o poi riusciremo a essere felici un mucchio di ore al giorno. La felicità è una costruzione eroica, il nostro cervello resta plastico anche da adulto, noi lo modifichiamo. Se io faccio un'attacca a emissione di positroni a un paziente che ha fatto una psicoterapia fatta bene, come Dio comanda, una psicanalisi, questa attacca si è modificata. E siccome tutti i fenomeni sono interpersonali, qualsiasi psicoterapia fatta bene alla fine ha arricchito lo psicoterapeuta, il quale ci ha fatto pagare, uno dei due ci ha messo i quattrini, ma tutti e due sono cresciuti. Quindi queste tre persone hanno trovato tre sistemi geniali per aumentare la loro felicità. Se aumento la mia felicità stando con la compagna che amo, imparando a suonare la chitarra, essendo l'angelo, bellissimo questo termine, oppure inventandomi il lampo di genio, di fare un lavoro che sia contemporaneamente la mia passione. Potrebbero tenere dei corsi. Grazie Silvana De Mari, che ci ha dato una lettura sua rispetto ai tre casi che hanno telefonato. Io avevo qualche dubbio sullo psicoterapeuta che dice lo faccio per essere felice anche me stesso, ma dimostra Silvana che in realtà la felicità è un procedimento chimico. Noi siamo felici quando accadono in noi alcuni travasi di sostanze, quindi qualunque maniera riesca a far travasare, far esplodere questa chimica corporea ci rende felici. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. margarita, le bracelet autour des poignets, e puis elle chantait. 800 24 00 24, stiamo definendo la difficile maniera di rompere con il quotidiano, perché rompere con il quotidiano, fermare un attimo il flusso delle vicende che ci prendono, ci portano, ci trasportano, a volte ci sopraffanno, a volte ci portano alle stelle, significa avere coscientemente la possibilità di trovare delle chiavi di felicità. Parola grande, parola sproporzionata per la nostra capacità umana di contenere il senso profondo delle parole, ma parola che in fondo dà a noi dei significati, dà a noi degli scopi nel corso della giornata. Avevamo iniziato parlando con Simone Perotti, che è autore di Avanti Tutta, edizioni Chiare Lettere, che è quel signore che un giorno ha lasciato tutto quello che sembrava importante per lui, professione, lavoro, relazioni, e si è ritirato in un altro tipo di attività. Si occupa di barche, si occupa di piccole attività che sembrano futili ma lui danno felicità. Simone Perotti però in questi ultimi tempi ha ricevuto tantissimi messaggi di persone perplesse, spaventate, dubbiose rispetto alla scelta drastica del downshifting, cioè del abbassare fortemente e notevolmente il livello delle proprie attese nel lavoro, nelle relazioni sociali, e quindi gli ha risposto attraverso un libro. Perotti, vediamo un po' di entrare più nello specifico, quali sono le paure delle persone che le scrivevano e che si sentono ancor più resi infelici dalla possibilità di fare una scelta drastica per ottenere la felicità. Sono le paure che derivano dal confronto con il sistema in cui siamo immersi, sono tutte riferite agli altri, non a se stesse, paura di deludere le persone che hanno investito su di noi, ci hanno fatto studiare, paura di deludere quelli che ci hanno sposato pensando a noi in termini di sicurezze, paura di non avere più un ruolo sociale, paura di morire di fame, quindi di non avere i soldi per cantare. Sì, quella devo dire che è quella che colpisce di più, l'incubo della miseria, di non avere i soldi una mattina per pagare l'affitto, per mangiare. La tragedia è che nessuno ricorda che noi, ahimè, come peraltro sappiamo da sempre, moriremo a 80 anni, quando sarà il momento, insomma, ognuno... Anche 90, se succede. E non avrà influenza, diciamo, su questo nostro destino tragico, la nostra scelta, anzi, al contrario, è facile che si muoia poi per non aver fatto, per non aver pensato, per non essere stati, e questa è una tragedia diffusa che dà conto della poca libertà che abbiamo nel pensiero della nostra vita, nell'immaginazione della nostra vita, e anche della scarsa concretezza che abbiamo. Quando sa cosa si teme secondo noi Perotti? Sì, se io abbasso il livello professionale avrò meno denaro, meno potere d'acquisto, meno abiti, meno automobili, meno seconde Questo case. Bene, però. Sì, però uno dice sì, però dopo la felicità cos'è? Se la felicità per qualcuno è, che ne so, vedere una persona per strada che ci piace, farle la corte e portarsela a casa, se non nemmeno la casa, se ho le unghie nere perché non posso andare dalla manicure, se non posso portarla a un ristorante mi sparo. Ma non è così, tutto quello che noi possediamo, salvo il necessario, lo stretto necessario per vivere, che poi sostanzialmente cibo e casa, è un ostacolo alla nostra felicità, perché ci costringe a essere schiavi per guadagnare il denaro che serve per acquisire quelle cose, schiavi del lavoro che serve per mantenerle, il pensiero stesso di doverle gestire. È evidente che questo sistema basato sul consumismo sfrenato e sul materialismo e il relativismo di ogni valore che non sia quello del consumo e della transazione economica è fallimentare per la nostra gioia. Come vede, però ti rende conto, Perotti, non lo prenda come una malignità. Lei sta parlando come un predicatore, una persona che poi fa una scelta così drastica, entra nel ruolo di predicare agli altri, sembra quasi un prete dal pulpito, dice la scelta materiale. Lo dico non con cattiveria, però lo sto osservando. Capisco la sua obiezione, ma non è così. Io ho solo raccontato la mia testimonianza, cioè quello che poc'anzi giustamente la signora diceva essere una via che è giusta per me e basta, solo per me. Però quello che invece è giusto più in generale, probabilmente è utile più in generale, è la riflessione ognuno per sé su quello che a lui serve. La sua è stata una scelta vincente. Scusi Perotti, lei adesso è un figaccio che c'ha la barca, sarà tutto abbronzato, scrive libri, è un romanziere, ma avercene di scelte, di alternative a fare il geometra, il ragioniere, l'impiegato tutti i giorni a fare il Perotti. Ognuno di noi ha quella che Jack London chiama la linea di minore resistenza, cioè il luogo dove la pallina sul tavolo inclinato andrebbe se noi non le rompessimo le scatole continuamente con cose superflue come cambiamenti di rotta dovuti ad agenti esterni. Io so portare le barche, mi sono specializzato in questo proprio per immaginare un modo per mantenermi, le lavo, cosa che saprebbero fare tutti peraltro, basta stracchinati giù e strofinare, e scrivo perché questa è la mia linea di minore resistenza, ma tanta altra gente sa fare tante cose e chi non le sa fare è malato, ha una malattia mortale ma curabile, perché non sapere quale sia la linea di minore resistenza della propria vita è una malattia indotta dal sistema in cui viviamo. Sentiamo Anna proprio. Anna, buongiorno. Anna, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Senta Anna, le faccio una domanda. Sì. Come mai io, se lasciassi quello che ho, che mi dà da vivere, mi mantiene abbastanza felicemente in vita, invece che come Perotti su una barca mi vedrei con un carrello del supermercato sotto un ponte a accendermi un focherello e arrostirmi un pezzo di pane duro? Ma perché viviamo in un mondo che è fatto così, voglio dire, nel senso che, non lo so, la mia esperienza, che è quella che io posso portare stamattina, è esattamente quella di Perotti, anche se io sicuramente sono meno ricca di lui. Si avvicina al telefono, sta uscendo dalla linea. Sì, mi sente? Cosa fa lei? Anche lei sta in barca? No, io non sto in barca, però a 50 anni un giorno mi è successo proprio questo, mi sono domandata, ma mi piace la mia vita? E cosa la risposta fatto? È stata no. Ho sempre lavorato nel commercio, avevo un ottimo lavoro, guadagnavo bene. Tenga vicino al telefono, perché vai sì. Bene. Mi sente? Si muova, resta lì, c'ho un secondo di tempo, forza. Ok, e niente, ho cambiato la mia vita, ho lasciato. Adesso vivo in un altro paese, sono andata a vivere sul lago, ho fatto una scuola, faccio un lavoro che mi piace di più, ho meno soldi ma sono molto più felice. E fa una scuola, fa l'insegnante? No, non faccio l'insegnante, faccio l'operatrice sanitaria, mentre prima vendevo cose e non mi piaceva più. E quindi, come ci diceva Silvana De Mari, il livello delle sue endorfine sale perché, sentendo felicità attorno a lei, anche lei è felice. Grazie Silvana De Mari, grazie Simone Perotti, grazie a tutti quelli che questa mattina ci hanno provato a raccontarci come si fa a diventare felici. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.